Ma la pista ciclabile per Fico è un tema che si sente risuonare nell'aria, diciamo, dei buoni propositi già da tempo, praticamente da quando si è cominciato a parlare di Fico, anche perché parte dei percorsi sono già disponibili, insomma non è una pista da fare completamente, ma soltanto da ricucire alcuni tratti che sono al momento scollegati. Sappiamo che il progetto c'è, il finanziamento c'è, lo sappiamo, diciamo, in teoria, perché poi in pratica, come consulto della bicicletta, questo progetto non l'abbiamo mai vagliato, non c'è stato sottoposto. Fatto sta che Fico apre, la pista ciclabile ancora non c'è, quindi è chiaro che stiamo parlando di una velleità che però poi nella pratica non trova questa priorità, cioè la struttura apre, in macchina ci si va, ma in bicicletta no. L'apertura è prevista fra un mese esatto, è difficile che in un mese insomma si riescano a fare i lavori di raccordo di queste piste ciclabili. Ma è assolutamente impossibile, ovviamente. È chiaro che la bicicletta non è nella testa di chi sta gestendo questo progetto, immagino che mai si aprirebbe se non ci fosse un parcheggio auto, ma si apre se non c'è una pista ciclabile. Prima parlavo con Federico Martelloni e lui sosteneva che insomma sia il costo della navetta, insomma l'assenza di collegamento per il trasporto sostenibile rende anche Fico forse una struttura pensata per i turisti provenienti magari dall'estero o da altre città. Avete anche voi questa sensazione? Beh, assolutamente sì, anche perché dal momento che, diciamo, le previsioni di visitatori si aggirano intorno alle 6.000 persone, diciamo che facendo un conto sugli abitanti di Bologna esauriamo presto le possibilità che le persone del posto possano esaudire le ambizioni di Fico in termini di numero di visitatori l'anno. Certo, anche i turisti si muovono in bicicletta, lo sappiamo bene, abbiamo un fiorire di noleggi bici in città, c'è la velostazione che fa questo servizio, quindi anche i turisti si muovono in bicicletta, per cui le due cose non dovrebbero essere contrapposte, anzi si dovrebbe incoraggiare, perché abbiamo visto altre mete turistiche, Bologna sta crescendo, la mobilità dei turisti ha un impatto significativo in città, quindi poterci lavorare per fare in modo che non tutti i turisti si debbano spostare con mezzi privati, con taxi o pagando costose navette, quando magari avrebbero piacere anche di visitare il territorio, di ridistribuire la ricchezza anche lungo il percorso, come fanno i ciclisti che visitano le città e i paesi, sarebbe sicuramente una cosa auspicabile. Ecco, al di là appunto di questa pista ciclabile direttamente per Fico, in quella zona, come dire, come siamo messi a infrastrutture ciclabili? Ma ci sono dei percorsi, dei sentieri sostanzialmente, che sono delle stradine secondarie che fini conoscitori possono rintracciare, ma non sono percorsi segnalati e disponibili, diciamo, per sicuramente non per il turista, ma nemmeno per il cittadino non esperto, diciamo, quindi c'è assolutamente bisogno di un'infrastruttura.